essere a Genova, migliaia di persone alla manifestazione, il corteo partirà tra poco, treni e pullman da diverse città italiane, senza gioia come si sperava fino a 24 ore fa, ma con determinazione. Voi G8, noi 6 miliardi. Lo striscione che apre il corteo, che ha già mosso i primi passi da Piazza Sturla verso il centro di Genova, racconta la volontà, di più la necessità, per il movimento di uscire subito dal ghetto dello scontro militare in cui la violenza, poliziesca e non, di ieri aveva tentato di rinchiuderlo. E a guardare le facce, ad ascoltare le parole delle migliaia di manifestanti che ingrossano di minuto in minuto le file della manifestazione, sembra proprio che questo sia l'obiettivo condiviso. Certo, ogni tanto parte un coro duro e amaro, Berlusconi assassino, ma lo slogan più forte è ancora, Genova libera, come due giorni fa all'indimenticabile corteo dei migranti. Nessuno grida vendetta, nessuno spera in un'improbabile rivincita. Tristezza sì, è tanta, ma, ripetono i manifestanti, all'ingiustizia di questo morto si risponde con la solidarietà e la calma, di più con la civiltà. E allora tutti in marcia, con a sinistra il mare smeraldino del Golfo e sopra la testa un magnifico e limpido sole, oscurato troppo spesso dagli elicotteri della polizia. Sono le 13:40 minuti, siete su Popolare Network per una lunga diretta che proseguiremo fino a questa sera. Siamo in grado di collegarci con il primo dei nostri inviati, che è Lorenzo Valera, e che per noi sta tenendo d'occhio proprio queste frange di Black Bloc. Ecco, io non so definire se effettivamente questo gruppo di persone possa essere definito blocco nero, black bloc, perché in realtà alcuni di loro sono vestiti completamente di nero con passamontagna, altri invece hanno vestiti del tutto diversi. L'unica cosa comune a tutti è che ciascuno tiene in mano un grosso bastone, una grossa, comunque ciascuno di loro ha in mano uno strumento per difesa, dicono loro, però che può essere ovviamente utilizzato anche per offesa. Tutti hanno il volto coperto, tutti sono più o meno barbati per poter ricevere colpi senza farsi male. Sono un gruppo di circa 200 persone e hanno già aggredito un paio di cameraman che stavano riprendendo, a uno gli è arrivata una bastonata sulla telecamera e poi è stato allontanato. Non si riprende qua! Adesso la volta per guardare i coglioni, no? Vattene! Coglione di merda! Io mi trovo in via Guerrazzi, angolo via Righetti, da via Guerrazzi, stanno scendendo moltissimi manifestanti che stavano al Carlini. Per mezz'ora hanno continuato a filare, quindi tantissimi, al grido di assassini, verso i poliziotti, perché loro scendevano da via Guerrazzi e in via Righetti, che è la via appunto che incrocia, a 200 metri ci sono blindati della polizia e i poliziotti, che in realtà erano con il volto rivolto al corteo che sta sfilando. Nel momento in cui sono scesi questi dimostranti, si sono girati nella direzione dei manifestanti che li insultavano al grido di assassini, pronti con gli scudi, qualcuno batteva anche il manganello sullo scudo. I dimostranti sono stati, come dire, delimitati da un cordone fatto dagli stessi militanti, perché qualcuno voleva entrare nella via verso i poliziotti. Adesso però la situazione è tranquilla, stanno tutti raggiungendo il corteo.